Letture di Radio 24. Nei giorni immediatamente successivi all'elezione di Papa Francesco, il giornalista argentino Orazio Verbitsky si era affrettato a gettare fango su di lui, accusandolo di complicità con la dittatura di Videla. Oggi si viene a sapere che Verbitsky era alle dipendenze dei massimi gerarchi di quella stessa dittatura. L'inchiesta che lo inchioda alle sue responsabilità con prove che appaiono inconfutabili è apparsa significativamente sul blog dei parenti dei Desaparecidos. È firmata dai giornalisti Gabriel Levinas e Sergio Serricchio. Si intitola «Con Dio e con il diavolo» e anticipa la prossima pubblicazione di un libro che riassume 14 mesi di indagini testimoniali e documentali. La guerra sussia. La guerra sporca argentina fu un programma di repressione violenta della cosiddetta sovversione, rappresentata dai gruppi guerriglieri marxisti, i Montoneros, o peronisti, attivi in Argentina dal 1970, tesa però ad eliminare più in generale qualunque forma di protesta e di dissidenza presente nell'ambiente culturale, politico, sociale, sindacale e universitario del paese. Secondo Levinas e Serricchio, all'inizio della repressione e al suo culmine, negli anni 1976-79, Orazio Verbitsky, conosciuto come uno dei capi dei Montoneros, si occupava di intelligence per conto dei guerriglieri, scampò alle ricerche grazie all'aiuto di un intellettuale influente collegato alla giunta militare, di nome Juan José Giraldes, che lo nascose in un ranch di sua proprietà. È stato il figlio di Giraldes, morto nel 2003, a ritrovare nel 2014 alcuni documenti scritti da Verbitsky, i giornalisti li hanno fatti autenticare da esperti grafologi, e alcuni contratti che lo legavano alla giunta militare per un salario di 700.000 pesos al mese. Dal 76 al 79 Verbitsky sarebbe stato il negro che preparava i discorsi per i vertici militari argentini. La sua collaborazione è provata da contratti firmati nel 1979 per la collaborazione a un libro che esaltava la forza aerea argentina nel 1981 e nel 1982, fino alla disfatta della guerra delle Falkland Malvinas. Dopo la fine della dittatura, Verbitsky sparisce dalla scena argentina per riapparire agli inizi degli anni 90 come implacabile accusatore delle violazioni dei diritti umani sotto la dittatura e della corruzione sotto il governo Menem. Era nel frattempo diventato una delle teste pensanti della famiglia Kirchner e il suo libro contro Bergoglio e il silenzio è datato 2003, in concomitanza proprio con la prima presidenza di Néstor Kirchner. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Filippo Di Giacomo, Lo scoop dell'Argentina, l'accusatore del Papa, era al soldo dei militari, dal venerdì di Repubblica del 29 maggio. Letture di Radio 24. Valentina Lisitsa, la celebre pianista ucraina di origine russa, ha sempre fatto affidamento sui social network per promuovere la propria musica, ottenendo grandi consensi. Il suo canale su YouTube, ad esempio, ha più di 170.000 iscritti. Ma agli inizi di aprile, un suo tweet sulla questione ucraina le è stato fatale. La Lisitsa avrebbe dovuto suonare due concerti a Toronto, accompagnata dall'orchestra sinfonica della città, che però all'ultimo momento le ha dato il ben servito, colpa appunto del suo tweet, giudicato troppo filorusso, che non è stato apprezzato dalla numerosa comunità ucraina che vive nella città. E questo non è l'unico caso di musicisti classici che hanno avuto problemi con i social, come ricorda Richard Morrison in un articolo pubblicato sull'ultimo numero di BBC Music Magazine. La pianista, nata a Kiev e residente negli Stati Uniti, 41 anni, ha costruito la propria carriera grazie a un sapiente uso dei social media. E per questo dovrebbe essere considerata una pioniera, un primo esempio di come gli artisti di musica classica possano usare internet per arrivare al successo, bypassando i percorsi tradizionali. Ma c'è un aspetto più controverso nella sua ubiquità mediatica. Negli ultimi mesi, la Lisizza aveva postato tweet con commenti acidi sull'attuale governo della sua nativa Ucraina. Commenti che sono stati interpretati dalla stampa ucraina e dagli ucraini residenti in Nord America come favorevoli ai separatisti russi e a sostegno di una linea pro-Putin. Mentre i suoi tweet diventavano sempre più provocatori, crescevano le proteste contro di lei. In Canada vivono più di 1,2 milioni di persone di origini ucraine e sono state probabilmente le pressioni esercitate da alcuni di loro a convincere l'Orchestra Sinfonica di Toronto a cancellare i concerti della Lisizza che erano previsti per aprile. Anche la reazione dell'orchestra è stata criticata. Se la Lisizza, invece di postare dei tweet pro-Putin, ci si è chiesti, avesse espresso le opinioni anti-Putin, condivise dalla maggior parte dei nordamericani, sarebbe stata ugualmente scaricata in modo così brusco dall'Orchestra Sinfonica di Toronto? E se la risposta è no, questo significa che possiamo ascoltare solo musicisti classici con idee politiche accettabili? Al di là della risposta, quello che è importante capire è il ruolo che ha avuto Twitter in tutto questo. Nella scorsa decade, Twitter e Facebook sono stati universalmente adottati da musicisti e dal music business come potenti strumenti di marketing. Niente di male in tutto ciò. Impossibile negare le potenzialità di questi mezzi per costruire contatti e mantenere costantemente aggiornati i fan sulle nuove uscite e sulle date dei concerti, anche se questo flusso continuo di autopromozione può sembrare un po' narcisistico. Il vero problema, tuttavia, è che né Facebook né Twitter sono gli equivalenti elettronici delle vecchie newsletter stampate che venivano inviate ad amici e sostenitori. Quelle avevano un bacino ristretto di utenti, mentre quello che si posta su Facebook o Twitter diventa di fatto proprietà del mondo, che lo si voglia o no. Non c'è un caporedattore che ti dice «Intendi davvero pubblicare questo?» E così si entra direttamente nel regno delle pubblicazioni di massa, con tutto il potere e i pericoli che questo implica. La Lisizza non è certo il primo esempio di musicista classico che si è bruciato le dita giocando con Twitter. Il compositore scozzese James Macmillan, che ha l'abitudine di esprimere opinioni piuttosto dirette praticamente su tutto, si è ritirato da Twitter per un po' di tempo dopo essere stato pesantemente denigrato. Pensa prima di twittare potrebbe essere la soluzione. In fondo, lo scopo principale del tweet dovrebbe essere quello di veicolare un'opinione arguta e sintetica, ma la maggior parte di noi non ha il dono di Oscar Wilde e internet non è l'estensione mondiale di una festa alcolica dove il giorno dopo nessuno ricorda nulla di quello che è stato detto. È un mezzo che cattura i pettegolezzi e i capricci passeggeri e li conserva per sempre. Tutto ok se è questo che volete, ma non lamentatevi dopo se vi fa perdere il lavoro, gli amici o la reputazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Richard Morrison, Musicisti e social media, un mix che ha il potere di rovinare la carriera, dal numero di giugno del mensile BBC Music Magazine. Lo scorso 19 maggio veniva arrestato a Gaggiano, un paese dell'Interland milanese, il marocchino Abdel Majid Touil. L'accusa è quella di aver avuto un ruolo importante nell'attentato al Museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo. Ma quasi sicuramente quel giorno il giovane era presente alle lezioni nella scuola che frequentava a Rozzano, stando alle dichiarazioni dei responsabili della scuola. Ci si domanda però per quale motivo ad un irregolare che era stato espulso 2 mesi prima era stato poi concesso di frequentare una scuola a spese dei contribuenti. Touil per l'Italia era ed è un irregolare. Era stato espulso il 17 febbraio all'indomani del suo sbarco in Sicilia. La scuola di Rozzano non l'aveva formalmente iscritto, però gli era stato concesso di frequentare le lezioni di un corso di prima alfabetizzazione. Un atteggiamento meritevole per alcuni, per altri una leggerezza, per altri ancora una grave colpa. Resta un problema che va oltre la scuola alle porte di Milano e investe le norme italiane sull'immigrazione e anche la loro applicazione. Com'è possibile che un immigrato che non è in possesso dei requisiti per il diritto all'asilo al momento dello sbarco in Sicilia e quindi viene espulso con un provvedimento ufficiale dell'autorità di pubblica sicurezza sia non soltanto lasciato libero di girare nel nostro paese, ma venga addirittura accolto in una scuola pubblica Com'è possibile che lo Stato con la mano destra ti intimi di tornare a casa tua e con la sinistra ti accolga in una classe per insegnarti la lingua? Soprattutto, è possibile che la mano sinistra non sappia che cosa fa la destra? In Italia la legge impone agli albergatori di registrare gli ospiti e di comunicarne i dati alla questura competente, mentre al contrario, se ti iscrivi a una scuola pagata con soldi dei contribuenti, nessuna legge prevede né controlli né segnalazioni di pubblica sicurezza. All'estero non è così. Se un italiano bussa a una scuola di Londra, per esempio, non gli è concesso varcare il portone se non presenta un documento valido. E si tratta di due paesi che appartengono all'area Schengen. Perché allora a Roma o a Milano basta dichiarare nome e cognome per essere inserito nei registri ufficiali, anche se provieni da un paese esterno all'Unione Europea e se in teoria potresti essere un terrorista? In Italia tutto questo è possibile, come mostra proprio il caso Twill. I suoi 90 giorni italiani, dallo sbarco all'arresto, dimostrano le troppe pecche del nostro apparato di gestione dell'emergenza immigrazione. Twill viene soccorso in mare il 15 febbraio, ma non ha un documento di identità. A chi cerca di identificarlo, dà il suo vero nome e viene fotosegnalato. Quindi gli viene notificato un decreto di espulsione e allontanamento firmato dal questore di Agrigento. Da quel momento Twill avrebbe 10 giorni per lasciare l'Italia. L'espulsione coattiva, con accompagnamento all'aereo o fino alla destinazione finale, scatta per motivi di sicurezza, oppure proprio quando l'immigrato, violando il decreto di espulsione, resta in Italia. Twill questo fa. Non torna a casa e punta a nord. Raggiunge la madre a Gaggiano. Nel frattempo le autorità tunisine segnalano il suo nome tra i sospettati dell'attentato al Bardo, ma di lui si è persa ogni traccia. Fino a quando, il 14 aprile, per motivi tutti da chiarire, la madre va in una caserma dei carabinieri e denuncia lo smarrimento del passaporto del figlio. È solo per quella coincidenza che il 19 maggio Twill viene rintracciato e fermato. Ma proprio a questo punto ecco il doppio paradosso. La mano sinistra dello Stato, oltre ad agire all'insaputa della destra, ne smentisce l'operato. La prova che Twill non poteva essere a Tunisi nei giorni dell'attentato arriva proprio dai registri scolastici della scuola che non poteva né doveva frequentare. Ma come ha fatto Twill a farsi accettare in quella scuola? Per iscriversi bisognerebbe presentare, oltre ai documenti, la copia del permesso di soggiorno o della richiesta inoltrata in questura. Questo prevedono le norme. Peccato che Twill avesse con sé soltanto una fotocopia sbiadita del passaporto. È evidente che gli è stata concessa la possibilità di presenziare alle elezioni, ammesso non come iscritto ufficiale, ma in qualità di affiancato fino a quando non avesse portato i documenti richiesti, un modo, dal punto di vista degli operatori scolastici, per non respingere un immigrato che chiede di accedere a un diritto fondamentale, come quello all'istruzione, ma anche la dimostrazione che nel nostro sistema di controlli, purtroppo, c'è qualcosa che non funziona. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Carmelo Abbate, È espulso, ma gli paghiamo la scuola, da Panorama del 3 giugno. Tra i caruggi di Genova si muovono almeno 300-400 ambulanti abusivi che vendono merce di dubbia provenienza, in zone dove i regolari arrivano a pagare anche 7-8 mila euro l'anno per poter vendere la loro merce. Il trionfo della Lega Nord in Liguria nasce anche come reazione al malessere diffuso e all'emergenza sociale. Sei peggio degli italiani. Tu vedi di non sputare nel piatto dove mangi e sparisci da qui. Mattina presto, festa della Repubblica. Mamme con bambini e turisti si dirigono verso il porto antico, che da 15 anni è diventato il salotto buono della città. Il ragazzo marocchino avvolge le sue cose nel panno sul quale le aveva esposte e si sposta 10 metri più in là. A difendere l'onore patrio non è stato un emulo di Matteo Salvini, ma la signora Ella Pieskova, titolare del chiosco che porta il suo nome, nata a qualche chilometro di distanza da qui, in Siberia. Perché da queste parti hanno votato tutti Lega Nord? Fatti domanda, datti risposta. E indica gli ambulanti del mercato abusivo che affollano quella striscia di nessuno attraversata dalla sopraelevata che separa il fronte mare dai carruggi del centro storico. Le cronache locali sono abituate a chiamarlo il souk di Via Turati, ma in realtà è un mercato davvero itinerante che si muove nei vicoli del centro storico. sono almeno 300-400 venditori irregolari che vendono e si scambiano tra loro oggetti, presi dai cassonetti della spazzatura, vestiti sottratti dagli staccapanni, i contenitori destinati alle onlus. In ogni caso, merce di dubbia provenienza e quasi sempre rubata. Quasi sempre occupano gli spazi destinati agli ambulanti regolari, che per stare in quella posizione, con vista sul porto commerciale, pagano al comune tra 7 e 8 mila euro all'anno. Dipende dalla posizione. Sarebbe una storia minima, la rabbia delle associazioni dei commercianti, le fiaccolate, le lettere contro il comune che non sa bene cosa fare, non fosse per i numeri che rivelano una certa assonanza tra causa ed effetto. Nella circoscrizione Molo, i carruggi abitati da vecchi immigrati meridionali, nuovi immigrati africani e borghesia progressista, la Lega Nord è passata dall'1,5% delle politiche 2013 a un mirabolante 15%. Il dato si ripete quasi identico nel quartiere accanto, Pre, nei carruggi della Maddalena, storico quartiere delle prostitute genovesi, adesso diventato zona di piccolo spaccio e malavita, si sfiora il 20%. A Campi, frazione della bassa Valpolcevera, dove gli scontri tra le bande di ragazzi ecuadoregni hanno fatto scattare una specie di coprifuoco delle attività commerciali, i lepenisti nostrani hanno superato quota 25%. I carruggi, simbolo della rinascita del centro storico, sono diventati un'emergenza sociale che la giunta arancione, guidata da Marco Doria, fatica a governare. Oppure si rifiuta, stando alle accuse che arrivano anche dagli alleati del Partito Democratico. Il confine tra tolleranza e lasciar fare è spesso labile. Il mercato di Via Turati si è ingrandito. Adesso arrivano abusivi anche da Milano e Torino. Luca Bizzarri ne ha fatto quasi una malattia, postando su Twitter immagini del degrado di Via Turati e litigando con gli esponenti della sinistra cittadina. Il comico genovese, titolare di metà della ditta Luca e Paolo, non è certo un politologo, ma neppure un esponente del Ku Klux Klan al pesto. Dicevo che bisognava far rispettare le regole e mi davano del fascista, ma se in nome di un malinteso senso dell'essere di sinistra non riesci a risolvere neppure un problema minimo di ordine pubblico, allora ti prepari a consegnare questa città alla Lega Nord. La giunta arancione di Genova è paralizzata tra lo scontro tra le due anime della sinistra. In una recente seduta del Consiglio Comunale, un esponente della lista Doria ha tessuto l'elogio del mercato di Via Turati, un esempio di scambio, baratto, di quella economia circolare di cui spesso parliamo con progetti ambiziosi. Tanti cari auguri per le amministrative del 2017. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Marco Imarisio, Ambulanti abusivi e merce rubata, nei carruggi del malessere, dove esplode la Lega Genovese, dal Corriere della Sera, del 3 giugno.